It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non conosce pause, K e Drago hanno paura della viaria. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Ma basta questa voce! Drago, tutti questi polli! Tutti questi polli, ti rendi conto? Ma calmati, K, cosa c'è? Siamo in una fabbrica di polli, ormai dovresti esserci abituato. Ma no, Drago, io ho paura dell'influenza aviaria, altro che essermi abituato. Ma vabbè, polli o non polli, io te l'ho già detto, K. La viaria è solo una di quelle influenze che fanno notizia e basta. Cioè, fanno notizia, il loro scopo è fare notizia. Sì, ma agitano. Poi non hanno nessun effetto sulla nostra vita di ricchi occidentali bastardi. Beh, agitano, già questo è un effetto. Anche se siamo ricchi occidentali e bastardi e prendiamo la paroxetina, agitano. Agitano. E poi chiedilo ai turchi, Drago. Ma i turchi, la Turchia non sono è a due occidentali, passi. Bastardi. Il prossimo pollo turco che arrivi in Italia ha un'altissima probabilità di essere malato. Altissima, lo dici tu. Altissima. I prossimi container di polli della Turchia hanno una probabilità ancora più altissima di trasportare polli malati. Sarà una pandemia. Le otto regole per non avere paura della viaria. Regola numero uno: non dormite in mezzo alla cacca dei polli per almeno i prossimi 6 mesi. Regola numero due: evitate di decapitare galli durante la prossima messa nera alla quale parteciperete. Regola numero 3: non chiudete i bambini nella piccionaia per punizione. Regola numero 4: pensate che comunque in Italia i controlli funzionano bene. In Italia non funziona. Regola numero 5: evitate di caricare in macchina allevatori di polli che fanno l'autostop lungo strade di campagna. Regola numero 6: non permettete ai vostri bambini di partecipare a feste aventi come tema Chicken Little o cose simili. Regola numero 7: acquistate solo polli che parlano italiano da allevatori di vostra conoscenza. Regola numero 8: consolatevi pensando che nessuna epidemia alimentare ha colpito l'Italia negli ultimi 20 anni, quindi vuol dire che la prevenzione funziona. Non funziona. K, devi avere fiducia nelle nostre istituzioni. Ma non funziona, Drago. Funziona, non lo funziona. Dici tu, ma stai a sentire, i tempi del colera a Napoli sono lontani ormai. Sono te lo ricordi il colera? Da quei tempi, che era inizio anni 70, a oggi ci sono stati pochi casi di salmonellosi, che mi ricordi, e poco altro, insomma. Perfino le epidemie più pubblicizzate qui non hanno attecchito. Qualcuno ha forse preso il morbo della mucca pazza in Italia? No, mi sembra di no, non so. Poi mi ricordo che ci sono state delle altre tentate epidemie. Tentate, no? Da chi? Tentate dai media. E anche quelli in Italia hanno fatto flop, come tipo gamberetto pazzo in Cina, sarà durata un giorno. La SARS, che ha fatto un po' di paura, ma poi giravano tutti con la mascherina. Sì, funzionava, SARS, sempre in Cina. Sì. Adesso l'influenza aviaria. Sempre in Cina. Sempre in Cina, è vero. Ma come mai? Le condizioni igieniche, il maoismo, il sovraffollamento, i diritti umani calpestati, cosa c'entra quello, dai. I funghi neri. Muoia è un gambero dei funghi neri. E comunque, K, è sempre la stampa che vuole vedere epidemie dove invece ci sono semplici... Semplici? Semplici... Semplici epidemie, Drago, non indorarmi la pillola che tanto non funziona. Non funziona. Ecco. Allora facciamo una scommessa. Io dico che l'influenza aviaria in Italia non avrà successo. Infatti zero. Non è una questione di avere successo, come Drago, no? È una questione di capacità di penetrazione del virus. Il MEMA potrebbe avere dalla successo. Turchia, no? Alla Grecia, dalla Grecia a Brindisi col traghetto e su fino in Svizzera. La Svizzera è di qua, l'Italia invece là. Guarda, non è più lontano. La fabbrica di polli. L'amministratore delegato della fabbrica di polli. Siamo degli eletti, è così, non c'è niente da fare, inutile che ci stupiamo. Non ci sono meriti particolari, si nasce così, si nasce predisposti per i posti di comando. Avete mai visto un amministratore delegato che diventa amministratore delegato per meriti? No, è una questione di nascita. È inutile che stiamo qui a fare gli invidiosi, ah ma lui merita più di quell'altro, allora non si capisce come mai il terzo è arrivato a essere amministratore delegato, quell'altro ha più anni di anzianità. Chi se ne frega degli anni di anzianità? And the animals suffer. Non domandatevi niente, alzatevi alla mattina, prendete il vostro trenino, la vostra metropolitana, il vostro autobus, venite a lavorare. Alla fine della giornata vi sentirete soddisfatti, riprendete il vostro trenino, il vostro autobus, la vostra metropolitana, tornate nel vostro pollaio e non rompete le scatole. Prendete il vostro mangime alla fine del mese e fate silenzio. Vi verranno dati anche giorni di vacanza. Mi piace partire in macchina d'agosto, resto in coda volentieri alla cassa del bar, resto in coda volentieri sulla riva del mar, resto in coda anche la sera quando vado a far l'amore sul via. Io voglio fare le cose tutte quante insieme a voi. Non voglio restare solo mai. Io voglio far le cose in diretta con il mondo. Non voglio star da solo neanche un minuto e neanche un secondo. Vabbè, di nuovo, di lineare, Verstappen, stai zitto un attimo, che almeno capiamo cosa vuol dire. Lesbico, ma cosa vuoi capire? Qui è Himmler, dici tu che è Himmler, vuoi stare a sentire Himmler. È la voce di Himmler. Sì, lì continua lì, non sta mai zitto, però il bello è che tutto questo blaterare, bla bla, in tedesco, non produce un accidenti e qui siamo sempre fermi. Ma Drago, ma la fabbrica di polli è attiva da mezzanotte a mezzanotte. Da mezzanotte, cioè, praticamente da quando? Da una mezzanotte all'altra mezzanotte, senza mai chiudere. Però mezzanotte a mezzanotte. Mezzanotte a mezzanotte, come da casello a casello. Solo che qui è sempre mezzanotte, non è sempre casello. A proposito di casello, Carlo, la mia macchina. Quale macchina? La mia macchina, quella che abbiamo lasciato distrutta non so dove e poi abbiamo seguito il polo. Ma Drago, ma era un'infinità di tempo fa. Ma un'infinità di tempo fa, era mezzanotte, adesso è mezzanotte. Oh my goodness. What's the matter? It's midnight. Ah già, ma qui è sempre mezzanotte. Qui è sempre mezzanotte, quindi la fabbrica, se sta aperta da mezzanotte a mezzanotte, non chiude mai. Mai. Ok, lo sappiamo, la situazione è più ingarbugliata adesso di 7 giorni fa, ma vi chiediamo di pazientare. I motivi per cui K e Drago si trovano apparentemente a loro agio nella fabbrica di polli rimangono ancora oscuri e le voci che sorgono da quell'infame prigione restano incomprensibili. L'amministratore delegato. È una questione di nascita. Il pollo in sbattimento. E io sono in sbattimento. L'eminenza. Non funziona. Per capirne di più, non dimenticatevi di tornare a sintonizzarvi la prossima settimana, da lunedì al venerdì, a casello su Radio 3. A casello in che senso? A mezzanotte su Radio 3. Per i prossimi temerari allestimenti de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli. Un programma di K e Drago. Con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Camilla Frontini, Giovanni Franzoni, Luca Gemma, Luca Monarca, Massimiliano Speziani. Barlumen.com. La fabbrica di polli at rai.it. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. La fabbrica di polli. Good night, ladies and gentlemen, good night.